Bene, allora i testi di riferimento utili per lo studio della Kabbalah sono... Ciao. Sei puntuale. Sì. Sono questi due, se parlate bene inglese compratelo, se non li parlate... Parlate l'inglese? No? Ecco, io per imparare la Kabbalah. Come? L'avevo tradotto in parte. Sarà in parte. Allora, io per studiare mi sono dovuto prima imparare l'inglese e poi imparare l'ebraico. Io ho un libro di... Che faticaccia. Allora, questo è il Sefer Yetzirah. Scusami, io però l'ho cercato l'inverno scorso. Sì. Sia al giorno dei libri che da Mondadori. No, lo devi ordinare su internet. Ah, ecco, perché sennò... Lo devi ordinare. E questo è stato attribuito ad Abramo e parla di tutte le lettere, tutte le loro relazioni con il cosmo. E è un testo veramente molto criptico, cioè è difficile a entrarlo. Sono più belli i commenti rabbinici che fanno riferimento a questo. Yetzirah viene dalla radice... ciao Stefano. Ciao. No, l'ultimo sappiamo chi è. Non abbia mai a togliere... La palma. Vuoi togliere il primato? No. Non ne sono degno. Yetzirah vuol dire restrizione. Sarà vuol dire restringere. Mitzrayim vuol dire l'Egitto. Praticamente allude a una restrittezza mentale. Tradotto significa il libro della formazione. Cioè la luce si è ristretta, ecco Luca, la luce si è ristretta, si è condensata e abbiamo la materia visibile. L'altro testo importante è il libro del il Bahir. Non so se è Zohar, no? No, Zohar è un commentario. È il Bahir, che è il libro dell'illuminazione. Molto bello anche questo, molto bello. Questa è la prima volta che te ne parli. Io tre corsi. Sono omeopatico. Ci hai lasciato l'oscuro. Sei parlato Bahir, che non conta niente. Mi sembra che capito Bahir. Guarda che sto registrando, eh. No. Lui ci vuole perché c'è... Come soprammobile, diciamo. Soprammobile parlante, però, purtroppo. Parlante. Stai registrando davvero? No, sì, perché può essere utile a chi non chiede, chi assente. Però dico delle cose interessanti. Ecco, bravo. Dicono, ma che è quello che... Allora, Bahir dell'illuminazione è più tardo come libro, però anche questo è molto interessante. Ecco, per esempio, il Bahir spiega un pochettino di più l'albero della Etz Chaim, albero della vita, no? Che vi ho mandato, Stefano, ti do una copia anche a te. Sto prendendo questo qui. Questo qui. Sono reduce da un doppio controllo di qualità, quindi ce l'avete niente. Tutti quanti, te ce l'hai Nicoletta. Ramortito. Ecco, vedete, questo è l'albero della vita. Non è della conoscenza? No. Haim vuol dire vita. Non è della conoscenza, no. L'albero della vita. E, praticamente, vedete che ci sono dei percorsi tra una sefira e l'altra? Ok? Allora, i percorsi orizzontali riguardano le lettere madri. Aleph, Mem, Shin. Va bene? I percorsi verticali, che studieremo insieme alle lettere madri, quest'anno, riguardano invece le lettere doppie. I percorsi diagonali riguardano le lettere semplici, ok? Quindi studiando le lettere comprendiamo cosa significano questi percorsi, la loro situazione, eccetera eccetera, ok? Questa sera parliamo della lettera Mem, che è questa, vedete, no? C'è la lettera Mem aperta e chiusa, ok? Il Sefer Yetzirah dice: fece regnare la Mem sull'acqua, le attaccò una corona, permutò questo con quello e formò loro tramite la terra, Arez, il freddo, Kor e lo stomaco, va bene? Allora, doppia perché è un duale, quindi esprime lo stesso concetto su due piani diversi, no? Quindi per esempio le acque aperte sono quelle, la mem è la lettera dell'acqua, la maim. Le acque aperte sono le acque che vediamo, le acque chiuse sono chiuse dentro la terra. E quindi rappresenta tutto ciò che è fecondo, rappresenta tutto ciò che è formatore. È una lettera quindi femminile, l'Alef dell'altra volta era una lettera maschile, che abbiamo letto. Questa è una lettera femminile. E ecco, per esempio, una cosa interessante è la mem quadrata. Qual è il significato della mem quadrata? Il quadrato è il valore esponenziale di un numero, no? E quindi è come se lo amplificasse al massimo. Poi il cubo è ancora di più, no? Quindi qui il valore di base è un ventre chiuso, d'accordo? E il quadrato perché? Perché allude alla forza smisurata del ventre, quindi dell'addome, dell'inconscio, delle energie che ci sono dentro l'inconscio, che sono fondamentali, noi ci muoviamo al 90% su spinte inconsce che abbiamo, e che è capace di accelerare la crescita positiva che c'è nella coscienza. Cioè, se non ci fosse il supporto delle emozioni, quindi io parlo di questa parte qui, dà la spinta, sono le emozioni che noi ci muoviamo più che altro per emozioni, è importantissimo. Ecco, questa è una cosa che dicono i rabbini. Dicono che è un'onda, cioè il geroglifico egiziano è più simile a un'onda. Questa è più un'onda che si sta scaricando. Altri rabbini dicono che è un uomo in una forma di preghiera con la testa fra le ginocchia, come fanno gli arabi, no? Che si mettono con la testa in basso, di raccoglimento, no? Sono raccolti lì. E ecco, la mem, allora immaginate, vedete l'albero, con la mem è stata creata la parte destra, ok? La parte destra, dove c'è Chokhmah, la saggezza, la sapienza, Hesed e l'amore, e Netzar, l'eternità o vittoria, ok? Quindi questa parte qui, che è una parte prettamente femminile, vedete? Femminile. E ecco, i 32 sentieri dell'albero della vita corrispondono ai primi 32 versetti del libro della Genesi. Quindi, andando a studiare il versetto relativo a quel sentiero, perché sono numerati, comprendiamo quello che quel sentiero vuole dire. Chiaro, però ci vuole tutta la conoscenza e anche la stramberia dei rabbini, perché ci fanno dei rimbalzi di significati che delle volte ci vuole un po' di coraggio. Cioè, io non lo so come ci fanno arrivare a certe cose, d'accordo? E il libro della Genesi è il libro fondamentale per lo studio dell'albero della vita. Sarebbe bello leggerlo con questo tipo di conoscenza, ma magari un giorno si potrebbe fare, sì. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. E corrisponde a quello che si chiama il pilastro destro Yakin. Allora, nel Tempio c'erano due pilastri per entrare nel Tempio, uno destro e uno sinistro. Il destro era la via della misericordia, la via dell'amore, la via delle emozioni. Il sinistro, la via della giustizia, Boaz, la via della giustizia, eccetera, eccetera. Questo corrisponde, la mem corrisponde al pilastro destro. E il versetto relativo è Genesi 1,12, perché è il sentiero 12, dove dice Vayar Elohim ki tov, e Dio vide che era buono. Dio vide che era buono. Questo è chiamato anche il sentiero della sapienza, va bene? Ok? E la parola chiave è vide. Ecco, si chiama così questo pilastro perché è il pilastro della visione. Da questo pilastro precedono le visioni, le profezie, d'accordo? Quindi, essendo la mema associata al ventre, è dal ventre che noi riceviamo queste... Ciao, ciao Vini, abbiamo cominciato. C'è un posto là, guarda, oppure se prendi una sedia qui... Se no scaliamo tu. Manca comunque ancora Luca. Manca Luca, sì. E dopo prendo la sedia di là, eh? Sì, va bene. Ecco. Ecco, nel ventre, qui, nella pancia, ci sono le nostre visioni, d'accordo? Da qui che scaturiscono, da questa parte del corpo. Io ho delle grandi visioni, insomma, probabilmente, che devono ancora uscire, devo dire la verità. Ecco, il più grande profeta nell'ebraismo fu Mosè, d'accordo? Inizia con la Mem, Mosè, quindi fu il più grande profeta, e fu colui che insomma salì sul monte Sinai. Ecco, e lui fu dalle acque, fu salvato. Fu salvato, non so, sì. No, no, no, no, la Mem è la lettera in un certo senso dello stomaco, dove è la sede della visione, quindi è per questo che lui... No, stomaco, cioè, gli ha dato... l'addome. Sì, no, sì, la parte più bassa, scusa, hai ragione, non è la parte più bassa della cosa. Ma lo dico perché, concetto, quando nasci sei legato alla madre dal cordone ombelicale. Quindi tu ricevi nutrimento, respiri tutto dal cordone ombelicale. Poi il cordone ombelicale viene tranciato e tu hai questo momento, devi piangere, sì. Il bambino che non piange nasce morto, perché devi avere questo improvviso aria che ti arriva dalle narici. Forse quello che hai detto te, no, noi stiamo arrivando, parlando della lettera, no, dalle acque, questa cosa è un concetto che forse è stato dimenticato, cioè... che tu nasci e sei collegato all'altro, alla tua essere, all'essere materno, attraverso la pancia, che è un punto nel quale la nostra cultura dà pochissima importanza. Sì, noi siamo... No, bravo, grazie. Siamo figli. No, come parliamo dell'acqua, nell'acqua, sei in una sacca dentro l'acqua, sei collegato tramite il ventre, poi dopo diventa importante solo la testa. Sì. E ti dimentichi questa cosa qua. Infatti questa cultura ha privilegiato la parte razionale del cervello, non la parte... Infatti stiamo andando... Perché siccome abbiamo detto l'altra volta, il cosciente e l'inconscio devono avere un ponte, se no sono staccati. E il ponte qual è? Quindi la Shin e la Mem, e l'Aleph, cioè è il superconscio. Cioè ciò che ti collega alla conoscenza più sottile che viene dall'alto, che fa da ponte fra tutte e due e la rettifica, d'accordo? Le mette in una giusta relazione, ok? Come appare per esempio nell'albero della vita, la colonna centrale è quella che fa da ponte fra i due. Allora, nella colonna di destra, sì, di destra, siccome l'acqua la va in zo, l'energia qui scende, qui c'è questo movimento di discesa continuo, qua siccome è il fuoco c'è la salita continua. No, fisico. Esatto, e la... Ciao Luca. Ciao. Ciao. Dovresti ciao. Prendere una sedia. Ma allora, è il movimento dell'acqua, l'acqua quando evapora sale, poi si condensa. Sì, ci sono tutti e due i movimenti, ma l'acqua nel suo stato naturale va in giù, insomma. Non sale. E invece nell'albero centrale, nella parte centrale, c'è un movimento circolatorio, cioè li unisce e qui c'è ascesa e discesa. Va bene? Un'altra domanda. Il fatto che l'acqua ha questa caratteristica che non ha una forma, ma assume la forma del contenitore, la possiamo collegare in qualche modo... col simbolismo delle lettere, col simbolismo... No, l'associazione più interessante che mi è venuta in mente, che ho letto anche, che essendo collegato alla sapienza, la sapienza è semplice. Scusate, spengo. Oh. Dici, il telefono non funziona. Quando io glielo dico che sei impegnato. Scusate. No, era Luca che mi stava chiamando per dire che... No, no. Per disturbare. No. Devo mettere il silenzio. La sapienza è semplice, d'accordo? È la capacità di entrare negli altri. Il sapiente è più largo, cioè si adatta molto di più. Invece l'intelligenza è più un qualcosa, una luce più diretta, più che colpisce più direttamente il punto. E quindi la sapienza è la capacità di ridurre a concetti più semplici. L'intelligenza invece è un qualcosa che tende a svelare, risvelare, eccetera, eccetera. Quindi per me l'acqua, la sapienza è l'acqua. Poi nelle scritture l'acqua è associata alla Torah, proprio alla legge di Dio, no? A questa sapienza che viene dall'alto. Poi parlavamo di Mosè, no? Come il più grande profeta dalle visioni, per le visioni che ha avuto. Mosè, se viene letto a rovescia, abbiamo la parola Shem, che vuol dire nome. E questo significa che è colui che conobbe il nome di Dio, che entrò in contatto con lui, va bene? Da cui abbiamo i Semiti, che sono coloro che conobbero il nome di Dio, va bene? Quindi ci sono dei rimbalzi molto belli. Bisogna avere questa perspicacia quando si studia la Cabala. Per esempio, l'altro giorno, non che sia perspicace, ma forza di studiare, parlavamo delle virtù teologali e le virtù cardinali, no? Le virtù cardinali quante sono? 7. Le virtù teologali quante sono? 3. Fede, speranza e carità. D'accordo? E invece le virtù cardinali sono... Lui che ha fatto il chirichetto, cioè, poi alla fine le cose si vanno a predisporre sempre a tutti i livelli secondo un piano già scritto, secondo una struttura già scritta. Noi non lo sappiamo il perché, ma ci muoviamo secondo un qualcosa che è già stato generato da Dio, e in tutte le cose questo si vede. Per esempio l'acqua, lo spirito, l'alef e il sangue. E l'Apostolo Paolo nella Bibbia dice che sono 3 che rendono testimonianza della nuova nascita: l'acqua, lo spirito e il sangue. Cioè sono cose attraverso le quali bisogna sempre passare. Se vuoi nascere, qualcosa di te deve morire. Tua madre dà il sangue, praticamente, esci fuori dall'acqua e c'è lo spirito che entra dentro di te. Quindi a tutti i livelli queste 3 lettere generano una nascita, sempre, continuamente. Quindi dopo bisogna capire in quale modo e in quale forma. Ecco, è fondamentale per aprire nuove visioni rettificare il ventre, l'inconscio. E per arrivare a ciò come si fa? Bisogna purificare il sangue. Dam, l'anima animale che vi dimora con tutti i suoi desideri egocentrici e sensuali. Quindi purificare il sangue, cosa voglio dire? Cioè, quindi rettificare quella parte animale che abbiamo dentro di noi. Finché siamo così legati a istinti bassi, i nostri occhi vedranno la realtà che ci permette il nostro sangue, non potremo mai vedere altre cose, d'accordo? Quindi non escludo anche una sana alimentazione, per carità, cioè, è fondamentale una sana alimentazione per percepire le realtà più sottili. L'altra volta parlavamo della ghiandola pineale che... Una alimentazione sbagliata la va praticamente a inibire, e tu le cose che sei molto collegato a ciò che i tuoi occhi naturali ti danno. Ma così come ci sono suoni che noi non percepiamo, ci sono cose che non vediamo, ma esistono. Cioè il mondo dello spirito è molto più vicino di quel che noi possiamo pensare, attenzione. Non penso che siamo veramente completamente soli. Cioè i cani, per esempio, percepiscono i suoni che noi non sentiamo. E quindi è come se noi avessimo un velo nelle orecchie, nel naso e negli occhi. Quindi quando noi viviamo rettamente, secondo una, diciamo, coscienza universale, che c'è un modo di essere più in sintonia con il nostro creatore, ok, questi occhi si aprono e vediamo cose che pensavamo che non c'erano. Allora, abbiamo parlato quindi della l'ascesa e la discesa, la sefira che collega le sette lettere, Luca ce l'hai questo qui, l'hai stampato, si chiama Tiferet ed è la bellezza. La bellezza, bellezza intesa come armonia, come simmetria, ok? Più le cose sono simmetriche e più sono belle. Per esempio, prendete un volto, dividetelo in due, non è mai uguale, attenzione, ci sono sempre delle differenze, un occhio più basso, un occhio più alto, ma più, ho preso l'esempio di volto, ma possiamo prendere tante altre cose, più l'armonia, più c'è armonia nelle cose e più sono belle, okay? Perché tutto ciò che ci circonda è armonia. Allora, io vorrei entrare un pochino nelle parole, ok? Avete stampato quelle che si... parole mem, avete stampate? Sì, così. Se resistono possiamo andare avanti. Allora, la prima parola che ho preso come fonte di studio è Gamal. Abbiamo una Gimel, abbiamo una Mem e abbiamo una Lamed. Va bene? E significa cammello, cammello. Ecco, dentro di sé c'è la matrice della sua esistenza, del suo modo di... cioè, il cammello è quello che deve viaggiare nel deserto, quindi l'acqua per lui è fondamentale. E la Mem è in mezzo a lui. E le consonanti Mem e Lamed, che sono la seconda e la terza, formano la parola mul. Se volete scrivere, le ho scritte già nella dispensa, ecco, dopo, esatto, lì nella dispensa. Questa parola significa circoncisione, ok? Qui manca la punteggiatura, cioè... mancano le vocali. Sì, è la vocale, la U, la U. Dovrebbe essere ML. La Vav lì è vocalica, ecco perché vorrei che facessimo il console ebraico, qualcuno che adesso dopo ne parleremo, per dare queste note importanti, ok? Significa, mul vuol dire circoncisione, ok? Cioè sono le radicali, basi della parola circoncisione. La parola circoncisione è Milla, M-L-E, e vale 85, lo stesso numero di pe, che è bocca, cioè non è solo l'organo genitale maschile che deve essere circonciso perché è datore di vita, quindi questo significa una certa alleanza, un certo modo di esprimere, il portare la vita, ma anche la bocca, che quanto di più è creatrice. Sì, è veramente in Dio la potenza della creatrice si è spostata sulla bocca, quindi è un organo da circoncidere quando è l'organo genitale. Significa tranciare via con un taglio netto la parte eccedente, ok? L'esuberanza, e allude a una successiva continua riduzione dell'essere, cioè intesa come un continuo eliminare qualcosa che dopo la crescita ci deve essere sempre una circoncisione, una potatura. Quindi questo deve essere fatto continuamente anche da noi, non è solo una circoncisione di un organo, ma è spirituale. Se noi non siamo capaci di essere potati, non cresciamo, ok? Non cresciamo, o cresciamo storti, e quindi l'uomo deve accettare dei cambiamenti dentro di sé, deve accettare che deve essere in un certo senso anche circonciso continuamente. L'uomo può fare questo, non lo può fare l'uomo, attenzione, l'uomo non è capace di questo. L'uomo non si può imporre di togliere quelle parti che sono in lui, crescono male, eccetera, eccetera, o questa non è un'opera, questo fatto qui è un'opera che riguarda la divinità, perché il vero circoncisore è lui, però dobbiamo accettare delle regole. Quindi se accettiamo lui, chiamatelo Yahweh, chiamatelo come vi pare, la natura, eccetera, eccetera, per me è Gesù Cristo, è come il vero circoncisore, cioè colui che veramente fa dentro di noi quest'opera, insieme a quello che è lo Spirito Santo, allora veramente noi cambiamo e ci eleviamo sempre alla maggior statura. Ecco, quindi tutti quanti noi in una certa misura viviamo dentro questa regola e bisogna saperla accettare. La psicologia non ce la fa a darci questa capacità di cambiare. La psicologia purtroppo è una lama fredda che ti entra nella testa, ti dice tutto quello che fai, quello che sei, quello che non sei, quello che dovevi essere, va bene, però non ti dà la mala soluzione. Non riesci a metterti nella situazione di dire veramente devo cambiare. Ci saranno anche dei cambiamenti perché l'età insegna eccetera eccetera, no? Ma la circoncisione che opera il nostro Signore o Dio eccetera eccetera va a toccare le corde dello spirito, perché quando Gesù guariva corrispondeva sempre una guarigione a livello spirituale, sempre, sempre, d'accordo? Quindi il suo bisturi andava veramente in profondità. Nella parola Gamal troviamo anche la parola Gal che significa ruota. Galgal significa andare in cerchio, e qui l'allusione è alla ruota delle ruote, che è lo zodiaco, ok? Quindi lo zodiaco fondamentalmente è questa ruota che dentro di noi gira ogni anno, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le lettere doppie, ecco, e significa anche liberazione, va bene? Gal significa Galilea, Gesù veniva dalla Galilea, era il liberatore, ok? Quindi è un qualcosa che ci libera da una condanna che possiamo avere con la circoncisione. Vedete, i rimbalzi simbolici sono molto belli. Ecco, per esempio, poi c'è la parola Mabul, che è la terza lì, che significa diluvio, quindi una grande circoncisione, ok? Essa è matrice, cioè ciò che rende accessibile il bul. Bul significa frutto. Senza la circoncisione non ci sarà il frutto. Senza la potatura non ci sarà il frutto. Ok? Poi abbiamo la parola Migdal. Migdal, torre. Torre. Mi viene in mente la lezione della lettera Lamed, che è la lettera del segno del... Bilancia, te lo sai, Lo so io. Migdal è pure in alto, perde il contatto, torre che vola, ecco, la terra. La bilancia è quella che si fa i sogni, no? Che spesse volte, ecco, Migdal è proprio la torre, Migdal aporea, torre che vola nell'aria, queste cose. Ecco, riporta a una sequenza 43. 40 la Mem, 3 la Gimel, 4 la Dalet e 40 ancora. 30 la Lamed. E 30 la Lamed, sì. E abbiamo la somma 77, per esempio. Ecco, queste cose ai cabalisti non sfuggono, ci deve essere un significato. Per... Ecco, dopo lì bisogna studiare e far... Stai dicendo una puttanata. Bip! Puoi astenerlo. Ecco, al centro c'è la parola Gad, che significa felicità. Gad, felicità. Ecco, la costruzione della torre esige la circoncisione, la potatura continua. Poi abbiamo Meged. Ci sono solo le codice fiscale. Sì, sì. Che è il migliore. La Mem è matrice della Gad, felicità. Ok? Poi abbiamo Melech. Melech significa re. È colui che ha ho dovuto fare una serie di circoncisioni per rivelare la corona. In effetti fisicamente la circoncisione maschile svela la corona. Quindi dovrebbero essere più circoncisioni. Vabbè che non è mica un temperamatite quello lì. Alla fine spero che ci rimanga qualcosa. Se no buttiamo via tutto. Ok? La circoncisione del membro maschile serve, ecco, sentiamo un po' nell'anatomia, a cosa serve? Cioè, serve per smorzare un po' l'appetito sessuale, no? E riallinea il punto dell'orgasmo tra maschile e femminile, perché gli uomini sparano prima, sappiamo questo, il femminile è un pochino più là, d'accordo? Quindi mediante la circoncisione c'è questo rallentamento maschile per arrivare insieme al punto dell'orgasmo, d'accordo? Ma questo nel fisico dobbiamo trasportarlo sullo spirituale, cioè circoncidere gli appetiti, circoncidere quegli aspetti di lussuria, ci permettono la vera gioia, il vero momento di gioia, che questo è il significato. Difatti Sasson è una delle parole che significa gioia, sesso. Ok? Bene. Poi c'è Malà. Malà significa riempire, completare. Non si completa l'arrivo finale all'Alef, Malà, c'è l'Alef in fondo, se non attraverso la circoncisione. Quindi l'invito è di cercare sempre di cambiare quelle parti del nostro essere. Però ve l'ho detto, non si riesce a fare, non parte mai da qua. Parte. Cioè, qua magari ci sarà una percezione, ma parte da qui dove poi è il Signore che... Ok, la MEM è il concetto di transizione, quindi la MEM... L'acqua è un punto di passaggio, no? Dell'uomo quando nasce, no? Quindi avevo detto cambiamento, e qui viene, uscire dall'acqua significa rinascere la nuova vita nel cristianesimo, quindi è sempre un passaggio, significa una sepoltura, quindi qui di nuovo tornano i concetti che ho detto prima della circoncisione, quindi sepoltura e rinascita, la mem è lì. Quindi la parola emet si scrive alef, mem e tav, se volete scriverla. Alef, Mem, Tav. Ecco, l'Alef, se noi disponiamo queste tre lettere in una linea temporale, va bene, abbiamo l'Alef che rappresenta l'inizio, ok? La Tav, la fine, e la Mem, che è centrale, rappresenta il punto in cui il passato, la Tav, e il futuro si incontrano. Cioè, fondamentalmente passato e futuro non esistono per niente, no? Quindi la Mem ha questa capacità di collegare temporalmente il passato con il futuro, va bene? E, le prime due lettere si leggono M, Aleph Mem, che significa madre. L'inizio dell'uomo, le ultime MT significa met, morte, d'accordo? E la fine dell'uomo, ok? E poi la mem qui, nel mezzo di questa parola, significa rinascita, quindi... Se un uomo non rinasce continuamente, sarà escluso dalla verità. Emet significa verità, ok? Quindi tornano di nuovo i concetti di rinascita, purificazione continua, perché il battesimo, il lavaggio nell'acqua, lo faceva il sommo sacerdote nel mikveh, d'accordo? Il mikveh è la vasca, chiamiamola battesimale, non so, vasca... Rituale. Battesimo per immersione, cioè dove si immergeva. Ecco, interessante che questo mikveh anche oggi deve essere innanzitutto acqua che scorre, cioè non è stagnante come una piscinetta, non è così, deve essere scorrevole, e deve essere riempita con 40 misure SEA, si chiamavano, sono unità di misure, parliamo litri, 40 litri di acqua, saranno anche pochi 40 litri. Ecco di nuovo il concetto del 40, la purificazione, d'accordo? E i 40 giorni del diluvio, ok? Quindi il mikveh dove si doveva bagnare il sommo sacerdote e si doveva immergere la donna dopo i suoi corsi, perché era ritenuta impura. Io l'ho detto mille volte, ma non è un'impurità morale o fisica, è solo un basso contenuto energetico. Ecco l'impurità dov'è in quel momento, d'accordo? Quindi per ritornare il punto che segnalava il ritorno al ciclo della vita era proprio questo mikveh, ok? Non hai fatto notare una cosa, lo dico a beneficio di chi non ha fatto altre cose, che questo, quando hai parlato di met, è met, no? L'altro bel concetto, è met verità, met morte, basta togliere anche una piccola cosa, sì, la verità, e diventa morte. Diventa morte. La verità è un fiore delicatissimo. Sì, sì. Basta niente. Difatti il valore numerico è 441, se tu da questa parola togli l'alef, che è 1, rimane 440. Arrotondiamo, diciamo, cifra tonda, no, no, nella verità, sì. Togliamo qualche milioncino. Una mano lava l'altra, sì. Due, dai, insomma. Bene. È la coerenza. Ecco, prima parlavo di una delle cose della MEM, che è la semplicità, no? Cioè la capacità di adattarsi. La MEM è serva, l'acqua è serva. Cioè l'acqua lava, non si fa problemi, va là dove altre sostanze non andrebbero. Allora, la semplicità è una caratteristica della sapienza, d'accordo? E l'acqua è associata alla sapienza, perché Chokhmah è la prima sefira che incontriamo nella colonna, d'accordo? E non è che è così, non è così per l'intelligenza, è più complicata, che è Bina. Dall'altra parte, adesso in parole semplici, la differenza tra Chokhmah e Bina, beh, io non ne ho tante, ma quella che più sento di sintetizzare, Chokhmah è lampo di genio, d'accordo? È l'idea che pum, è l'intuizione, e Bina invece è il programma che va a sviluppare l'intuizione. Quindi vedete che quest'albero lo troviamo a tutti i livelli, cioè è bellissimo perché è lo schema più preciso di tutti i livelli di esistenza. Basterebbero studi su questo. Allora, l'intelligenza quindi è la capacità di spiegare, come dicevo prima, no? Di spiegare quello che è complicato. E come tale richiede uno sforzo e un'applicazione molto focalizzati. L'intelligenza tende alla specializzazione, mentre la sapienza alla generalizzazione. È un po' più generico il sapiente, d'accordo? All'universalità, all'ecletismo. L'intelligenza è più connessa all'elemento fuoco, mentre la sapienza è connessa con l'acqua. Ecco, nelle scritture è scritto: la sorgente della sapienza è come un ruscello che sgorga, quindi questo lampo pum, che viene fuori. E ecco il nome della lettera Mem è Mum, cioè a livello più basso Mum significa difetto, Mum, onta, macchia. E si riferisce ai pericoli della discesa della consapevolezza all'interno del ventre, cioè se noi viviamo di pancia. Okay? Quando la consapevolezza viene inglobata, sovrastata dalla pancia, allora ci sono dei difetti nella personalità. Okay? Quindi rimanere intrappolati a quel livello lì, come purtroppo accade molte volte, noi, come dicevo, siamo troppo istintuali molte volte, viaggiamo troppo per istinto. E quindi l'essere umano a questo livello subisce un difetto, okay? Ecco, poi... sei sicuro che abbiamo distinto, ma è il contrario. No, gli distinti li abbiamo estinto, vedi, tutta estinto. Testa. Cosa? Tutto estinto, meglio adesso. Agisce l'impulso. I tre istinti li abbiamo comunque. Sì, sì, però... Cioè, dal punto di vista animale che hanno composizione. Sì, però purtroppo noi abbiamo ancora molto, viviamo ancora di istinti molto bassi, insomma. Ma che istinti, cioè, ma non sono gli istinti dove... Adesso noi viviamo perché siamo bombardati da messaggi, fondamentalmente, non gli istinti. Ma sì, ma no, ma siamo bombardati da immagini, da messaggi, da ricette di consumo che fanno più delle cose. No, io nel senso, non è il nostro istinto, cioè, se tu istinto non sai più neanche cos'è, te hai tutta una serie di bisogni indotti. Sono indotti da... Estinto, il cervello basso. Una verità ripetuta all'infinito diventa. No, una menzogna ripetuta all'infinito diventa verità. Ti ripeto di continuo la menzogna e te dici: hai bisogno di quello, c'è bisogno di quello, il tuo istinto non c'è più. Dice. Insomma, ma la volontà passa secondo me non c'è la capacità. Appunto. Se non ci fosse istinto ci sarebbe capacità di critica, invece non c'è più. Lì non è che c'è l'istinto, lì tu puro. Cioè, sei ubriaco, voglio dire, hai bypassato tutto. Cioè, ti no, ma quello è estremo. L'istinto, io dico, il bambino nasce e è tutto istinto, pure istinto. Sì. Dici? Il bambino nasce, deve, ha fame, deve mangiare, ha freddo, è pure istinto, pure sensi. Poi dopo comincia a mettergli tutta una serie di da, e esce fuori, di condizionamenti. Sì, ma gli istinti ci sono, non ce l'ha più, lo perde. Perché per te la mente è solo condizionamento, ma il problema secondo me è che manca nella nostra società, cioè hai una mente che è troppo mentale, che è troppo condizionata e cerca di condizionare e ti manca il collegamento. Ma condiziona la mente regolatrice, la mente regolatrice. Condiziona che bisogna gli istinti a quel punto, non c'è più l'istinto. Manca l'utilizzo del pensiero diversamente. Mente regolatrice. La mente mente. Non mente condizionatrice. La mente condizionatrice è la patologia della mente regolatrice, la mente è regolatrice, patologicamente diventa condizionatrice. Giusto? Comunque sì, siamo lì, fuoco, acqua, manca la parte centrale del cuore, dei sentimenti che devono essere sempre un collegamento con l'altro, perché così anche tra uomo e donna se non c'è... Che devono passare dal superamento dell'istinto, ma deve essere un superamento consapevole. Guarda, è sempre una consapevolezza molto annebbiata dall'istinto. Alla fine. Ma anche per disturbare da questi messaggi dissonanti. Beh, comunque. Cioè, chi è centrato con la mente nella sua parte consapevole non, sei centrato non subisce con la l'istinto. Sei centrato con Ale. Con Ale sì, non puoi essere centrato con la scina. No, sì, però la condizione di equilibrio ci vuole, nel senso che o scino Ale non è più condizione dell'istinto. Quella che l'istinto diventa, in cui l'istinto predomina sulla mente, quella che noi dovremmo evitare. Tu dici una buona esistenza depurata, con le potature ripetute, sì. Le cose in più che sono solo istinto o sono anche mente? No, sono anche mente, tutto l'essere umano, sia di mente che di della parte sì. Bassa, tutto l'essere umano deve essere continuamente sì. Cioè anche il corpo, ma sapete quante volte moriamo noi nelle cellule? E si rigenerano, cioè è fisiologico. Se non fosse così, cosa diventeremmo? Cioè, se questo avviene nel corpo, che moriamo tutti i giorni, quante volte? 1000 volte, 2 milioni di volte, le cellule, la pelle mi sembra che in un anno quante volte cambiano? 7 volte? Ogni 6 mesi. Vabbè, il 7. Quindi la stessa cosa deve venire a livello spirituale. È identico, non c'è. Se no andiamo adesso alla sclerotizzazione. Arriva l'età in cui andiamo verso la sclerotizzazione e andiamo spirituale, arriva un'età che non cambi più. A 70 anni leggevamo sulla lettera Ein, è il punto di arrivo. Se non sei cambiato lì. È dura. Sì, difatti, 70 anni è l'età della vecchiaia, il segno del Capricorno, mi sembra. La persona anziana, 70 anni, quando è cattiva, sapete quelle persone che non le cambi più? Io sto facendo un lavoro, una donna che mi fa diventare matto, ha più di 70 anni quella lì. Questa è proprio diventata, non è cambiata, è così, non ci fai più, non la va più a trovare nessuno, no, neanche i figli, nessuno, ci vado solo io che devo fargli il lavoro. E mi riempie a me di beghe tutte le sue. Cioè, ecco, volete arrivare a questa età così voi? Speriamo. Cominciate a potare, papà. Però, come dicevo prima, ognuno si rivolga al suo Dio, cioè dobbiamo mettere fuori questo. Rivolgersi a Dio in preghiera, cosa vuol dire, per esempio? Vuol dire prendere qualcosa tuo, portarlo fuori. Ti è più facile lavorare quando l'hai portato fuori. Ti è più facile lavorarlo, no? Quando diventa verbo nella tua bocca, nella tua preghiera, che dici: Signore, mi accorgo di essere così, così e così. Ecco, quando tu fai questa operazione, non è solamente una lode alla divinità, è qualcosa di andare a scavare nel pozzo e portare fuori la melma. E quando hai fatto questo, è già un prendere coscienza profondo, d'accordo? È quel ciclo che dicevo l'altra volta, l'acqua che sale e che poi da sopra scende qualcosa, scende qualcos'altro. Dategli voi il valore, fate come volete, ma dobbiamo fare questo lavoro su di noi, d'accordo? È molto difficile, molto. Ecco, la Mem occupa il 13° posto nell'Alef Bet, alfabeto. 13° posto. Il 13° ancora qui è un numero dell'unione. Echad 1 vale 13. Ahava, l'abbiamo fatto l'altra volta, vale 13, d'accordo? E quindi ha questa capacità di unire gli opposti, di unire. Va bene. La prima volta che la Mem appare nella Torah è in Genesi 2. No, non in Genesi 2, qui ho sbagliato il versetto. Beruach Elohim merachefet al pene hamaim. Ok? Dice, lo Spirito di Dio aleggia sulla superficie delle acque. Interessante notare che l'acqua citata in questo versetto era preesistente. Era preesistente quest'acqua qui. D'accordo? Non è stata creata. Quindi era qualcosa che c'era già. Perché all'inizio della creazione... E c'era già quest'acqua. Che cos'è quest'acqua? Dicono i rabbini. Loro dicono l'acqua della Torah. Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. Bereshit in principio bara creò Elohim Dio et alef tav. L'alef e la tav, quindi il verbo. Alef bet. Quindi quest'acqua era preesistente. Ecco, le caratteristiche principali associate all'acqua. Ok, quindi un po' rispondiamo alla tua domanda. Può essere sia umida che fredda. Ok? Umida vuol dire un po' più temperata, più calda. Allora, il freddo è sempre, quasi sempre considerato un principio negativo, ma non sempre, ha anche i suoi valori positivi. Ed è associato alla stasi, all'inerzia della materia. Ok? Alla pesantezza, alla staticità. Ok? Questo si manifesta nell'essere umano. Ecco, dopo qui possiamo fare certe associazioni, per esempio con i segni di acqua, oppure in altre caratteristiche. Adesso non conosco io bene la naturopatia, per esempio c'è il carattere linfatico, il carattere. Quindi, a seconda del carattere, andiamo a vedere se c'è più acqua o meno acqua. Quindi, pigrizia e alla ritrazione. Può essere, per esempio, una personalità d'anacqua stagnante, ok? Dove brulicano esseri immondi, d'accordo? Zanzare, tafani... Lustre. Sì. Quindi l'acqua, comprendiamo che deve essere qualcosa di circolatorio. Quindi lo stagno qui è paralizzato, quindi parliamo di mente, di coscienza. Qui è uno stagno paralizzato. E le sostanze sono morte, anche i microrganismi a questo livello. L'aspetto psicologico è la bulia, personalità bulica, e l'apatia. Va bene? Il paradosso sta nel fatto che, pur essendo matrice di espansione di vita, diviene in questo caso simbolo di fissazione, ci fissed, si dice, sei fissato, no? Staticità e morte, che si manifesta in stati depressivi. La depressione non è altro che uno stagno morto, questo è psicologicamente la depressione. Quindi c'è una retrocessione, un regresso della personalità a questo livello. Il freddo kofresh è associato al male, alle forze del male, che tolgono per esempio nella religione o nella vita in generale l'entusiasmo. Oggi vediamo la gente che non ha più entusiasmo, io lo vedo proprio, si vede a tutti i livelli, stiamo diventando freddi, stiamo diventando, non abbiamo più la spinta, ci svegliamo la mattina, prima cosa è uno sbuffo, non abbiamo più la contentezza, no? Quindi ci stiamo un po' raffreddando molto, d'accordo? Non c'è il calore umano, purtroppo. Mi vengono in mente, scusate. Questo scusa, l'Apocalisse lo dice, no? Sì. Tiepido. Sì, però mi vengono in mente altri passaggi nelle Sacre Scritture che io ho sempre detto non li conosciamo abbastanza. Devo dire, la carità verrà meno negli ultimi giorni, cioè, proprio verrà meno la carità. Cioè, passi, ci sono due persone per la strada, le incroci, non, manco si salutano più ormai, no? Una volta ci si salutava nei paesi, cioè, non siamo così presi dalla nostra realtà. Questa è la mentalità dell'acqua che si è stagnata, quindi non è portatrice di rinnovo, non è quell'acqua del ruscello che... Ok? E pensate agli animali a sangue freddo, sui serpenti. O i rettili fanno delle cose, si mangiano la prole proprio, no? E tra un po' diventeremo così se non stiamo attenti. Questa... Non lo sapevo. Sono già alcuni, vuol dire. Sono già tra noi. Sono fra noi. Il monaco Adolfo li ha smascherati. Allora, dal punto di vista fisiologico, l'acqua corrisponde al tipo linfatico. Tipo linfatico. Caratterizzata dal predominio dell'apparato digerente e della funzione nutritiva. Allora, la morfologia del tipo acqua è vegetativo, sonno, inerzia, proprio stasi, d'accordo? Stasi, che manifesta una stasi interiore, quindi dovremmo essere sempre attivi. L'acqua in natura tende al ristagno, meno che non trovi piani diversi e non si mette in moto, quindi se non costretta da forze superiori. Cioè, sono solo piani diversi che fanno sì che l'acqua si riversi, d'accordo? E quindi l'acqua per sua natura tende alla stasi nel mondo nostro, a meno che non ci sia qualcuno che causi questo movimento. Ecco, per esempio, la MEM... Perché dopo, scusa... Se crei il movimento diventi inarrestabile. Infatti, cioè, qui c'è una lettura, tu dai un'altra lettura. Cioè, la lettura dice l'acqua è l'elemento più forte perché nulla la può arrestare. Perché l'acqua trova sempre una via. Se gli metti uno sbarramento qui, l'acqua fa l'onda sopra, gira di fianco, sì. Si infila, arriva da tutte le parti. È considerata anche una cosa di grande forza. C'è l'elemento più forte l'acqua. Sì, sì, ma di non fatti, può arrestare perché trova sempre una via. Difatti, è un duale. Sono due aspetti dell'acqua. C'è l'acqua stagnante. Della pozzanghera che non esiste. Spegne il fuoco, è inarrestabile, l'elemento più forte della natura. Insieme al fuoco. Perché si adatta. Sì. Quindi. Penetra. Ecco, la MEM associata alle lettere semplici dei segni zodiacali associati all'acqua. Abbiamo Chem, Chet e Mem. La Chet è associata al segno del cancro. Sì, cancro. Chem vuol dire caldo, e il caldo qui allude al caldo che il cancro cerca nella famiglia, d'accordo? I valori della famiglia, d'accordo? Di questo calore è il suo rifugio, praticamente. L'unico modo per il cancro per uscire da quelle che sono la freddezza della prova nella vita, eccetera, eccetera, è sempre il suo rifugio, è sempre nella famiglia. Solo lì trova le chiavi della sua, è la sua protezione, questo, il suo guscio, praticamente, no? Quindi, se non trova lì queste cose, questo calore è proprio perso. Oggi vediamo che nella famiglia sono un sacco di disastri. Penso che il cancro soffra molto più di tutti della mancanza di queste, del calore familiare, della maternità, della paternità. Poi abbiamo la Mem con la Nun Nell'ebraismo, questa è una radice molto, molto diffusa. Min, per esempio, vuol dire provenire, provenienza. Gerushalayim vuol dire Gerusalemme. Mirushalayim vuol dire da Gerusalemme, d'accordo? Ed è questa associata al segno dello scorpione, questa radice, ed è significa anche, min significa sesso, specie, genere, e sono due temi che lo scorpione, quindi la riproduzione, d'accordo, il sesso, molto vicini alle caratteristiche dello scorpione. Ma sesso non tanto come desiderio sfrenato, ma come via per rettificare quell'aspetto, per rettificare la personalità, d'accordo? È uno strumento, d'accordo? Quindi che lo scorpione usa molto. Poi abbiamo cum, significa il segno dei pesci. Cum vuol dire alzarsi in piedi, mantenere, sostenere, colui che alla fine della ruota dello zodiaco deve alzarsi in piedi per riportare il ciclo dello zodiaco di nuovo, affinché non diventi stagnante nelle nostre debolezze. Di Luca, come è importantissimo. L'ultima messa l'anno scorso ai pesci. È la COF la lettera, vero? COF, sì, vabbè. COF. Ecco. Un grande segno. Cof. Vedete quella gamba che va sotto, d'accordo? Siamo passati, siamo uguale dall'acquario, uguale. Si è superato. È uguale. Il segno del Messia. Era dei pesci, finita. Si dice che Gesù fosse dei pesci, ricorda? No. Pisces era di... Era fuori da queste limiti. Te l'ho detto la password dei cristiani, il pesciolino di... Era il simbolo del doppio arco, si riconosce con il doppio arco. Te che Ictios è il simbolo dell'ostia. Pesce in greco, ictios. Perché c'era lui, è bellissimo, quel pesciolino che era la password di cristiano. L'ostia al segno IHS, ictios. Sì, sì. Sì, sì. Tu devi però, hai detto, stai girando, tu stai evitando un tema. Qual è? Qui sono 22 lettere dell'alfabeto, 22 arcani maggiori. Cioè, alla fine tirano fuori i tarocchi, non puoi evitare l'argomento. Alla fine, perché quella è una mancanza. Cioè, tu lo devi 20.000 volte, non potevi dirlo, scusami. Sentieri. Li parla tutti, i sentieri, però scusa. La MEM corrisponde al matto. 22 lettere, 22 arcani. Devo andare d'estate, con la MEM fare i tarocchi. La morte, il cambiamento. Sì. Vabbè. Ci siamo, c'è concisione, cambiamento. È dalla morte di Schiavi, è la morte. Però la MEM cos'è, il matto? No, non lo so. Comunque alla fine svelerò che occultamente ho fatto un corso di tarocchi. No, devi dire, scusa, ascolta, abbiamo detto, traggono origine probabilmente dai grafemi egizi. E tarocco egizio, insomma, ormai è dillo, no? Cosa fai? Ma vedi, lì a fare questa... No, in effetti, in un certo senso, la via che scende della MEM è la via della magia. La via che sale dalla Shin è la via del mistico. Sono due modi per accedere, no? La magia è come sfruttare i poteri spirituali e portarli nella materia. Quindi le formule, gli incantesimi, le preghiere, no? Poi arrivi all'alchimia. Poi arrivi all'alchimia. Questa è la via della magia. Ed è la via, in un certo senso, femminile. Difatti le donne sono più quelle che... più portate a questo, perché sono più vicine alle emozioni, più vicine alle cose sottili, più sensitive, d'accordo? Vedete come le cose si incastrano. La via maschile, la via del mistico. I mistici sono uomini. Guarda che Mosè è il mago. Sì, esatto. Ma il mistico è colui che usa invece la materia, cioè il digiuno, usa il corpo, d'accordo? Usavano la solitudine fisica, la separazione, d'accordo? Quindi usavano molto. E quindi vedete come tutto torna. Quindi parlando di tarocchi, non è che. Mosè era il mago. Mosè dicono che fosse uscito dall'Egitto con i tarocchi. Io questo non lo so. Stava l'altro nel cestino. Eh? L'altro nel cestino. Non lo so. Di Pietro, no. Dice, dicono Certuni, io, guarda, i tarocchi io non... Non ne so niente, proprio veramente. Dici, io dico, ma tu devi soltanto dire il riferimento alla lettera, non è che devi fare la proposta. Sì, ma io infatti devo parlare. Io devo parlare della lettera. Si vede. Tu puoi anche vedere se la figura del tarocco, dovrebbe commentare la figura del tarocco. Ma no, lui dice soltanto no. Guarda questa lettera. Io spiego la lettera, dopo quale sia il tarocco. Tu fai i collegamenti, fai le tue ricerche. Io sono gematico, grammatica e gematriana. Ah, magari. Allora, per chiudere il segno dei pesci, cum alzarsi, d'accordo? Quindi nel segno dei pesci si assiste a una graduale discesa in basso, colui che porta nutrimento a queste forze negative per rettificarle, d'accordo? Per portarle in alto. Quindi si assiste alla rettificazione della negatività. Allora, l'elemento creato è la terra. Eretz. Nel libro della formazione la terra non è considerata un elemento, ma come il ricettacolo che contiene tutti gli altri tre, fuoco, acqua e aria. Questo lo sapete meglio di me, ecco. E la terra è connessa con l'acqua. Infatti questo è il pianeta azzurro, perché se potessimo uscire da qui e guardare la terra vedremmo che è molto connessa con l'acqua. Ecco, un midrash dice, midrash vuol dire, drash vuol dire cercare, inteso come cercare la verità, un racconto, che Dio avrebbe staccato un fiocco di neve dalla base del suo trono, perché secondo alcuni midrash lui dimora in questo trono in cui c'è della neve, il biancore della neve, che è la purezza, e lo ha gettato nell'oceano. Mano a mano che questo fiocco scendeva, si trasformò gradualmente in terra. D'accordo? Questo era un midrash che sicuramente non trova spiegazione nella realtà, non esiste una cosa del genere, a meno che non abbiamo una chiave simbolica di interpretazione. Io l'ho scritta qui. Le emozioni, i sentimenti, l'acqua devono diventare azioni, cioè concretezza, la terra. Cioè, questo è il mondo delle azioni. È il mondo delle azioni. Tu puoi pensare tutto quello che ti pare, tu avere tutte le più buone intenzioni, ma se non diventano pratiche, azioni, non cambia niente. Quindi le azioni ci aiutano a rettificare la personalità. Per esempio, per noi occidentali è più il servizio, tra virgolette, può essere cristiano, eccetera, eccetera, non cristiano, però il nostro modo è più operativo, più di altre culture dove prediligono, che sono la meditazione, l'ascetismo, no? Noi siamo operativi, quindi dobbiamo rendere queste parti, questa nostre sentimenti, emozioni, travasarle nel mondo dell'azione, cioè fare le cose. Infatti questo è il mondo di Assia. Assia si chiama, Assia, e sono quattro mondi, no? Quattro mondi significa fare, il verbo asà, fare, ok? No, anche, c'è anche qua, guarda, c'è anche qua, adesso ragazzi, non lo so perché conosco quello, ma tu l'hai buttato, uno, due, tre, quattro, sapete, no? Sono quattro mondi, sono tutto la posta. Assia è uno di questi. Il mondo più basso, questo, Malkut, Malkut. Il tetragramma sono di quattro. No, ma uno che fosse sviscerato. Assilot, sì, esatto. Comunque sia, questo è il mondo dell'azione. Cioè, siamo in Malkut, il mondo basso. Molto, molto basso, sì, ben basso. Allora, la parola Ares viene dalla radice Raz, razzo. Quante parole ci sono nell'ebraismo che sono entrate nell'italiano? Ma tantissime ne ho trovate. Razzo vuol dire qualcosa che si muove molto veloce, d'accordo? Il razzo è qualcosa che parte. E la radice è razzon, un'altra parola collegata è razzon, che vuol dire, significa volontà, potrebbe arrivare fino a ragione, può darsi che ci stia. Ecco, significa volere. Dove corre la terra? La risposta la troviamo in questo detto: Nikret Arez, Arez, Kiratza la Zotra Tronconea. Si chiama terra perché corre per fare il volere del suo Signore. Quindi, se la terra corre, quanto dobbiamo correre noi? Quanto dobbiamo cercare queste leggi che ci governano e del quale molte volte noi manco lo sappiamo, per conoscere e seguirle, che so, parlo della legge, che so, dell'amore, è fondamentale. Io infatti credo che le fatiche della vita fondamentalmente sia proprio quando non siamo in sintonia con le leggi. C'è, esatto, esatto. C'è una coscienza universale che è la fonte di ogni felicità, che è fatta di leggi, che la troviamo nella natura, nei sassi, dappertutto. Scusate se sono un po' zen, ma è così. Ci sono delle leggi che ci governano. Quando andiamo panteista, nella natura... Sì. Panteista, sì. Panteista. Quando andiamo diventando sciano. Sì. Quindi la distruggiamo. Non ti sei accorto. No. Per niente. Con queste leggi ci provoca... Ci fa star male. Il peso dell'esistenza. No? Esatto. Lo spirito. Noi dobbiamo scoprire queste leggi. Scoprire, farle nostre, cioè, ma sono semplici alla fine, perdonare. Chi non perdona non fa questa azione di tranciare la parte. Quanti, la circoncisione. Quanti rancori generano malattie? Quante cose cattive portiamo dentro, no? Perché il perdono viene visto come un atto di volontà e non è un atto di volontà. Il perdono è un percorso. La gente pensa superficialmente perdoni, ho tutto perdonato, fatto, deciso. Invece è un percorso lungo. Però torno sempre su questa cosa: l'uomo queste cose da solo non le fa, non ti è dato. Non è una questione di ragione o di sforzo mentale, perché nel momento che dici da oggi in poi sono così, devo far questo, stai pur sicuro dopo 2 secondi sei già, hai già sbagliato. L'uomo non le fa perché non si mette nelle condizioni per poterlo fare, perché le condizioni, ma poi le condizioni lo sappiamo, sentite lì, cioè c'è un atto di volontà, devi andare nel deserto, devi fare il deserto. Il deserto cos'è? È un po' di silenzio, invece sei bombardato di tante cose, non fai mai silenzio. Comunque, silenzio può essere preghiera, meditazione, quello che vuoi. Trovo perdono, non fa lavorare gli avvocati. No, lo so, no, perché la mediazione fallisce? Perché la mediazione? Perché la mediazione in Italia fallisce? Non è un istituto. Che vedo sul perdono, non abbiamo finito le separazioni di volte. Allora, ma lo scopo dovrebbe essere. No, sono due cose diverse. Un conto è finisci prima, sei più tranquillo. Un contratto è stato prestipulato. Altra cosa è che i due codici si perdonino cose che l'altro dice di aver fatto. Un'altra cosa. Lo dirò domani. Dirò perdonate vicenda, ma fate separazione. Guarda, cambiamo avvocato, tutti e due concordemente. Vi dico perdonate, ma continuate la separazione giudiziale, tra l'altro. Purtroppo c'è questo tentativo di mediazione. Se c'è il perdono dovrebbe essere consensuale. Dovrebbe. Siamo in un mondo imperfetto. Fino al punto che il divorzio non dovrebbe nemmeno esistere. Pensa te. Migrazione. Viviamo in un mondo imperfetto per cui ci sta. Ci sta, ci sta. No, è così, guarda. Se fossimo, se vivessimo in maniera perfetta non ci sarebbe, perché ognuno vive delle leggi cosmiche in maniera corretta e trova le chiavi di soluzione ogni volta. Allora in quel caso non si dovrebbe essere neanche. Ci sono dei cambiamenti. No, perché manca un elemento fondamentale. Questa unione contro natura. Nella realtà, una cosa sta in piedi quando si è in tre. Quindi uomo, donna e Dio. Quindi se viviamo armoniosamente questo rapporto, tutto funziona. Non voglio entrare nell'ambito perché è difficile spiegare, ma quando sono solo due teste è difficile, non è possibile. Se ci si rifà un codice superiore dove c'è il perdono, l'amore, okay? Il servizio reciproco, tanto tu ami chi servi, fondamentalmente è così. Quando tu smetti di amare è perché non hai più servito quella persona. Sapete quella storia di questo scultore che scolpì questa statua continuamente per renderla più bella, poi fine si innamorò. Ecco, se noi facciamo un'opera del genere d'accordo? È così, questa è la vita, siamo a questo livello, due persone non si trovano mai. Sono d'accordo che purtroppo viviamo nell'imperfezione e ci sta anche quello, difatti Mosè concesse la lettera del divorzio. Bene, quello è il punto di partenza, amiamo chi serviamo o serviamo chi amiamo? Che non è semplice. No, amiamo chi serviamo. Ma perché sotto? Servire, ma non devo servire, la lode e l'amore puro, sì, ma servizio. Alla fine ognuno di noi deve comprare un proprio percorso, che poi ti serve a tizio, Caio, se vuoi, per farlo, perché serve, questo vi servono anche i figli, però non per questo, una volta che li hai messi in mondo li abbandoni, ma ti sono serviti per comprare un percorso, ok? Nel momento che li lasci andare per la loro strada, non è che divorzi da loro, no. È perché è un percorso. Ma nell'unione fra uomo e donna, che è la cellula dell'esistenza di questa terra. Va bene, ok. Come collochi l'amore profondo. Il grande cosmo si riorganizza sempre, perché comunque il Signore ci ha lasciato il libero arbitrio, su questo sono tutti d'accordo. Sì, no? Certo. Perché nel momento in cui tu lo adotti e uno dei due lo adotta e l'altro no, uno compie il suo percorso, l'altro per qualche motivo si blocca. Bene, allora perché anche l'altro si deve bloccare, perché fai anche quello sul pianerottolo? A quel punto entri in gioco te, perché cioè, a quel punto è questione di scelta, di tua personale aspirazione, di tua personale capacità di accettare certe cose. Io non sono divorzista, per carità, però se le due anime se tutte e due si bloccano a causa di una, io non credo che Dio voglia questo. Io non credo che Dio voglia questo. Domanda Macigno. Ecco. E l'ha sparata lei, La condizione delle imperfezioni in cui siamo provoca distonia. E quindi quella è una conseguenza, una distonia questa qui. Esatto. Purtroppo, che però siamo nella fase già, se non siamo Malkut, vicini ci siamo, insomma. Non siamo più nella fase della dimensione aurea, definita dagli alchimisti, in cui le cose scorrono. E quindi il tripode uomo, donna, Dio regge, ma siamo nella fase della patologia, quello che ho definito, okay. In cui subentra il libero arbitrio qualcuno che esce dalla fase tonica e entra nella fase distonica. Okay. E allora, però questa è la patologia, noi dovremmo celebrare la fase invece della fisiologia pura, che è quella del... Io ho parlato proprio, se fossimo nella perfezione non ci sarebbe... Perché parliamo della dimensione della perfezione, ma della santità, che poi la santità, vabbè, insomma... Però lui dice, no, se tu dici... Io sono santo. Chiama dalla vita, no? Non dà, no? Non la pretende. Noi invece vediamo che chiama pretende la vita dell'altro. Cioè, oh, siccome io ti amo, tu devi fare questo. Adesso oggi l'amore è condizionato, non esiste più neanche tra madre e figlio. Come no? Esiste, è che non lo vediamo. Esiste. No, guarda, esiste. Perché la frase è ignorante. Manchi un elemento. A me lui. Lui è l'avvocato, lui è il tecnico. Esiste. Io faccio la domanda così. Sono il mondo sarebbe già in fase, sarebbe già finito. Si regge ancora sull'amore profondo. Isacco sposò. No, aspetta. Isacco sposò. E l'amore. Così tanto da lasciarti libero. E l'amore. Certo. L'amore viene dopo, Cioè l'errore che facciamo oggi è pensare che l'innamoramento sia. Cioè noi siamo figli del lavoro romantico. Finché la veramente della mente, cioè tu ti innamori di qualcosa perché ti piace, non perché lo senti. Scusa, te vai alle tesi di Galimberti, dei filosofi, è una sospensione dell'innamoramento, è una sospensione dell'intelletto. Si sospende l'intelletto. No, perché per amare veramente ci vuole intimità. Lo dice Galimberti. Fisica. Ed è una comunione. Di persona, la madre ha il figlio prima che nasca, sì, ma lì c'è un altro rapporto. Il padre ama il figlio quando lo conosce, quindi crescendo, sì. Ed è un amore diverso. Dici, cioè, sì. Lo conosce. Sì. Il padre ama il figlio perché è proprio padre. Allora, è statistico. Una madre che sta partorendo e rischia la vita, se tu chiedi al padre chi salviamo, lui ti dice sempre la madre, mai il figlio, perché non lo conosce. Sempre, può darsi non sia sempre. No, sempre, ti assicuro, dice sempre la madre, non dice mai salvato il figlio. A parità di condizioni, perché comunque non lo conosce quel soggetto, non ha una sorta di... E parlate sempre male di noi. No, per carità, no, forse è vero. Sì, però, penso di sì, è una persona che fa... E l'innamoramento da proprio, cioè tutti innamorano da buttato il bersaglio, è divino, c'è ancora vederlo. qualcosa, persona, perché conoscendolo ti piace qualcosa di lei, gli occhi, i capelli, il carattere, il profumo, non so che accidenti, però è la conoscenza che viene un po' pian piano, non arriva l'amore. Comunque, tornando, scusi ti interrompo, dopo te puoi fare la domanda, vuoi fare adesso? Il discorso uomo, donna e spirito, ma viene estratto dalla religione? No, dalle... No, non da, dalla Cabala? No, no, anche dalla Cabala. La Cabala, se la vedi da, sotto un'altra... Fondamentalmente dalla Cabala. La tiri fuori da lì. No, la tiri fuori, la tiri fuori. Nello stesso nome... Tutto è trino. Sì, tutto è trino. Qual è il terzo membro? L'amante che tiene in piedi il matrimonio? Cioè, a volte si è rivelato utile. La me, vedi che ha mosso. Cioè, in Ayurveda, medicina cinese. No, se, se andiamo a leggere la parola... Sì, ci, deve, ci vuole il terzo elemento che è esterno ai due, non può essere umano, tra l'altro. Che è esterno ai due e non può essere umano quello, perché lo spirito è qualcosa che è al di fuori, ma sì, e quindi se non c'è non si formula l'unione. Poi sarebbe la Shekinah, la Shekinah nella, nella religione, la Shekinah. Ma nelle stesse parole Ish e Isha, uomo donna, se tu togli la uomo, la Yod e la He, Isha, rimane Esh. Ma non è fuoco inteso, no, no, qui, qui, qui vabbè, a ruota libera. È inteso il femminile e il maschile? Esh, non so, chiedo. No, no, no, no, no. Uomo, donna. Uomo, donna, e ci vuole il terzo elemento. Se no, si arrabattano, avranno una buona unione, non lo so, ma non, non è quella spirituale. Della fusione, ma la fusione di due personalità, pur mantenendo l'individualità, perché non c'è una, un annullamento della persona, è una cosa che è l'alchimia più grande che ci possa essere, e solo Dio può essere l'artefice di questa cosa, solamente Lui. Quindi io da religioso parlo di un qualcosa che viene da sopra a noi e che ci fa. Poi c'è anche sicuramente buoni matrimoni senza l'aiuto della divinità, ma lì si tratta di buon senso, si tratta di amore. Non voglio dire che non possa, cioè, funzionare, non c'è, non è più discussione, però la profondità, spirito, la profondità, la coppia, cioè della divinità, chiamata come vuoi, Dio, energia, universo, chiamatela come volete, no, Dio, energia come la, cioè, sai, ognuno, anche io la chiamo Dio, cioè non è che o spirito, sono. Deve essere così. Vabbè, questa. Qual è il concetto che ha scatenato questo? Non lo so. Sì. Colpa sua. No, ma scusa, è la genesi, perché dice prima crea l'uomo, poi dopo, clona, dopo quando dice clona, clona la donna. Donna, quindi prima fa un ermafrodito, fa un essere unico umano che ha una parte femminile e una parte maschile. Poi dopo, dopo la genesi, vede che era prima solo. Li fa entrambe, e siccome la prima femmina, come dire, gli era venuta forse un po' male, si è ribellato un attimo e ha detto aspetta, la seconda, la prima, no, no, no, mi sono sicura che l'uomo vede che era solo, messa, vede che era solo. Cioè, comunque la prima, no, donna, no, no, cosa dice la Genesi? Sì, dopo ci sono le interpretazioni, Lilith, che, vabbè, quella è più, un, non so se dagli un fondamento di verità, la sì, conosco, non, è sempre, non lo so. Perché la sì, Lilith ha l'energia femminile, Lilith è l'energia maschile, cioè comunque, sì, stesso essere sì. Che... No, Lilith non ha due l'energia maschile, sì. Tant'è perché è l'uomo e la donna. Lilith sono. Sì, vabbè, adesso è raffigurato in uomo e donna, comunque maschile e femminile, è ovvio che sono due soggetti, Lilith. Però comunque Lilith è femminile, perché sì. Lei ha bisogno comunque di unirsi senza procrearsi ai Gemini, quindi che comunque sono elemento maschile. Quindi lei è femminile. No, no, no. Se c'era Guido. Io ho un trasformatore dentro. Ci voleva Guido. Che alla fine dà un senso a tante cose. Questa è la memma a proposito di spinti. Questa è la memma. Quello che si mostra per adesso è la memma. Comunque sto leggendo un libro di un rabbino, Ginsburg, che parla del matrimonio. Tutte le parole chiave del matrimonio, molto bello, sto traducendolo, è una gran fatica. L'elemento centrale è sempre la Shekinah, è un qualcosa che viene dalla divinità, che fonde due esseri, sempre, sempre. Se no non... È il superamento della dualità, dai, no? Che è però bello teorico. Allora, dove siamo arrivati qua? Mi confondete. Allora, il tipo terra è nervoso, ho scritto bilioso, spento. Predominio, che cosa sei? Predominio del sistema nervoso e delle funzioni psichiche. Qui la terra fornisce le seguenti caratteristiche: stabilità, perseveranza, concentrazione, preoccuparsi del lavoro, del successo, del denaro, pensiero logico, scetticismo, eccetera, eccetera. Gli manca l'acqua. Proprio la terra e l'acqua deve portare questa vita a un elemento di per sé. C'è il deserto, d'accordo? Di per sé spento. Allora, prima vi ho fatto l'associazione della MEM con i segni di d'acqua, adesso lo facciamo con i segni di terra. Shor, toro. La lettera Vav è la lettera del toro, formano il suono primordiale mu, e qui nel toro vediamo il predominio della preoccupazione per le cose materiali, un segno molto, molto di terra, d'accordo? Quindi colui che cerca la stabilità economica tramite il lavoro, tramite questo modo di essere, che può essere sia egoistico, ma nei livelli più alti è una ricchezza che poi mette a disposizione di tutti. Poi abbiamo la Vergine, Betulà, Mi, la Yud, che forma la parola Chi, e qui abbiamo la proverbiale ricerca della verità della Vergine a tutti i livelli, insomma. Colui che si pone continuamente domande, no? Sì, sono io. Anche tu adesso, perché io sono abituato in casa, ma sì. Lo sa. Figlio. Mia figlia, sì. Ah, è vero. Mercurio, no? Mercurio, il pianeta, sì, della Vergine. Tra l'altro ascendente gemelli, cuspide, cancro. Mamma mia! Ecco, qui capovolgendo abbiamo la lettera Yam, mare, Mi, Yam. La più evidente manifestazione della MEM, il grembo dove la terra è cresciuta e maturata. Qui abbiamo il valore numerico 50, le 50 porte della sapienza, le 50 domande che Giobbe fece a Dio, che Dio fece a Giobbe se avesse risposto a tutte le domande, eccetera, eccetera. Quindi il 50 è anche l'età dell'uomo in cui sviluppa questa capacità, insomma, questo desiderio di conoscenza. Il 40 è un desiderio di cambiamento, no? Infatti i 40 anni l'uomo dice: ma forse devo cambiare lavoro, ma forse devo cambiare moglie, forse devo cambiare casa, forse devo cambiare... È un passaggio, effettivamente è così, no? Nascono questi nuovi sentimenti. 50 è l'età in cui dovrebbe diventare intelligente, si spera, no? Si spera. Poi abbiamo il Capricorno, Tevet, il mese di Tevet, lettera Ein, fermano la parola popolo, Am. E qui si assiste al culmine del senso sociale tipico del Capricorno, il trionfo della collettività sopra l'individualità. Bene. E poi, vabbè, adesso cor freddo, di questo ne abbiamo parlato. Ecco, la freddezza è il risultato del diffondersi di una forma di consapevolezza che è orientata unicamente verso i valori del materialismo, cupidigia e istinti territoriali. Una persona è fredda se il suo ventre, il senso egoico, lo governa. Va bene? Bene. Potete leggere da soli poi queste altre cose durante la settimana. E la parte dell'anima del corpo formata dalla MEM è il grembo, Beten. Beten. Perché è cor associato a Deborah? Se tu fa freddo, cor Deborah? Non lo so. È l'asse più retta di Deborah? No. Forse ho sbagliato. No, chiedo, nel senso che è l'asse del, diciamo, di Chesed, no? Sul pilastro destro. Tu. Mi chiedevo come mai di freddo, il freddo proviene, no, è la provenienza del freddo. Allora bisogna andare a guardare il nord, il sud, l'est e l'ovest, perché hanno un significato. No, non ce l'ho. Però lei è qua e quindi l'asse è questo. Sì, è Hod e Netzach, vittoria, eternità. No, più che altro è la provenienza che dà questo. Il freddo viene dal nord e dal nord vengono i giudizi severi di Dio, viene la guerra, vengono, è più qualcosa che è collegato all'aspetto della sinistra, perché ci sono dei collegamenti tra... Sì, infatti faccio fatica anche io, bisogna chiamare chi l'ha commentato queste cose, perché a volte trovo anch'io, per esempio quest'albero della vita che io ho è una fotocopia di quello che c'è qui, il Bahir, d'accordo? Questo qui, però io ho trovato delle cose molto discordanti su altri alberi, dove questo sentiero, per esempio, qui c'è la He, mi sembra, ci mettono la Aleph. Okay. Io faccio fatica a pensare che ci sia un Aleph qui. Okay. No, lì parte c'è il cielo normale, quindi parte con dei percorsi. Ah, sono d'accordo. E questo qua, e questo qua, adesso non so, ecco, vedete, e questa è la fotocopia di questo. Però io ho trovato alcuni alberi della vita che non sono così. Quindi Aleph e Bet, sì, sì. Aleph, Bet fanno la discesa numerica. Io dico, ma che roba è questa qui? Sul sentiero? Quindi. Sui sentieri, sì. Allora, l'Aleph non mette, cioè allora non mette l'Aleph qua, per forza. Appunto, ho detto, no, l'Aleph deve stare qui invece, nella parte mediana. Deve collegare l'amore con la giudizia, col giudizio, cioè deve mitigare il giudizio. Ma deve pure, cioè, come fai a mitigare giustizia e misericordia? Se sei giusto, non sei misericordioso. Se sei misericordioso, non sei giusto. A parte quello, ci sono 22 quelle lettere doppie. Sì. E quindi le collochi quello trasversale, cioè, è quasi matematico. Sì, sì, ma anche 3, 7, 12. 7 sono le doppie, vengono. Cioè, non so come hanno fatto, non lo so, dopo che interpretazione dà, non ti ho guardato? Non ho avuto tempo, però mi ha già sorpreso il fatto che l'Aleph si trovasse qua e non qua. Un errore di stampa. No, era tutto sballato quell'Aleph. Era un senso diverso. Era tutto sballato, io ho detto no, non può essere così. Non puoi vedere l'interpretazione andata, la cavola è così a mille... Appunto, in un certo senso io lo capisco che Gevurah... Il freddo, cioè la giustizia, no? Che immobilizza l'essere, che ti mette un freno, dice no, basta, non vai avanti, per giustizia ti blocca, quindi c'è una stasi, c'è un recesso, c'è un capito, in questo senso lo capisco la giustizia, Gevurah, d'accordo? In questo senso qui, va bene? Poi il grembo. La parte del corpo che ovviamente ecco, secondo un'interpretazione metaforica, il versetto del Cantico dei Cantici, Bitnech Aremat Kitim, il tuo ventre è come un covone di grano. Se uno dovesse dire così una donna, depravato, i tuoi denti sono come capra, il pascolo verde, così sei suonato, gli vai a dire così, i tuoi denti sono quello che, quella che è sopra è come quella che è sotto. Non è sdentata sta donna, non è sdentata. C'è un mio conoscente che è Roberto Mercadini, non so se, che tiene qui delle conferenze molto, molto belle, ne ha fatto uno sul Cantico dei Cantici, su questi aspetti del cantico, mi ha fatto morire dal ridere. In questo modo? Sì. A proposito, vi ho mandato, domenica c'è un concerto. Se volete venire la chiesa evangelica via Trento, il duo Simantov, tu l'hai ricevuto? Sì. Li conosci? Sì, sì, li ho sentiti quest'estate. Otto Barnelli, Simantov. Simantov, Simantov, Masaltov, Simantov. Bello. Sì, sì, sì, no, ma è molto bello. Musica klezmer, quindi fisarmonica e clarinetto. Via Trento alle 3:30. Io ci andrò sicuramente. Sono le partite. Lui viene con la radiolina, dopo che stiamo invitando. No, metti la cuffietta. Ma te dovresti essere già eliminato. Ma che ne va? Va bene, fatemi leggere, fatemi leggere il finale di questa cosa. Si riferisce alla potenza del ventre femminile. Mamma mia. Avete una condividete con Dio la più grande delle sue... Che... Le sue prerogative. È la più grande. Fa non penso più, d'accordo. Questo è l'unico miracolo. Sì. Che l'uomo gli è concesso fare grazie alla... Sì. Qui direbbe, il mio amico massone direbbe... La donna è il forno. Te, troppi amici strani. La donna è il forno, ma il principio è fallico. La scossa proprio fondamentale l'ha fatto loro, perché se non c'è... Chità grano vale 22. Grano, la parola chità. Totale delle lettere dell'alfabet, da cui proviene tutto il creato. La fertilità creatrice direttamente proporzionale alla disponibilità ricettiva, allo svuotarsi, al costituirsi come semplice recipiente. D'accordo? Va bene, allora. Sequenza cos'è? Sequenza di